Eccoci, siamo al telefono con Andrea Cegna, giornalista freelance e redattore di Radio Onda d'Urto, per parlare delle proteste che hanno nuovamente attraversato il Perù. Intanto grazie mille della tua disponibilità. Niente, grazie a voi, un saluto. Allora, inizio col chiederti quando e come sono iniziate le proteste che hanno portato alla destituzione della presidente del Perù, Dina Boluarte. Diciamo che le proteste contro Boluarte sono iniziate il giorno dopo il suo insediamento, nel 2023. Hanno avuto diverse ondate, l'ultima ondata è iniziata con l'estate, diciamo la nostra estate, l'inverno peruano, e ha avuto il culmine in settembre con queste grandi mobilitazioni guidate da studenti e studentesse, soprattutto la stessa generazione Z, che a un certo punto ha spinto il governo del Perù a destituire Boluarte, anche se secondo me la mossa è una mossa, insomma, diciamo furbesca del Parlamento peruano, perché la dimensione è più quella di perimetrare il potere a pochi mesi dalle elezioni del 26 aprile 2026. Ecco, c'è stato un morto in queste ultime proteste. Il 15 ottobre è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco un manifestante. Le morti sono comuni durante le manifestazioni in Perù? Cioè, cosa ci dice questo della repressione poliziesca nel paese? Allora, il nuovo presidente Gerì si sapeva essere molto vicino alle forze poliziesche e militari, e pare avere un po' mostrato direttamente il pugno duro, anche se a differenza di quanto accaduto nelle prime settimane del governo Boluarte, dove ricordo che erano stati 60 morti di piazza, in questo momento la polizia si è, diciamo, scusata per il morto, dicendo che è stato un errore, una tragedia, e quindi diciamo che c'è un po' questa differenza, anche perché quello che pare evidente da tutti i punti di vista è che la mobilitazione in Perù non ha assolutamente paura della repressione. Quindi sia i 60 morti del governo Boluarte non hanno fermato la protesta lunga 2 anni, né questo morto qui ha fermato né lo sciopero del 15 ottobre, perché era una giornata di sciopero, né in generale la voglia di mobilitazione, perché già il giorno dopo ci sono state delle altre piazze e in programma ci sono nuove mobilitazioni. Parliamo di queste nuove mobilitazioni, certo che la giornata del 15 ottobre è stata una giornata di sciopero generale, quindi un po' quali sono le forme che questa protesta si dà e qual è la composizione sociale di chi è sceso in piazza in questi giorni e quali le rivendicazioni? Ah, la composizione è per lo più di classe medio-bassa, perché diciamo la stratificazione sociale in Perù è molto forte, e queste proteste non sono solo per le elezioni anticipate e non sono solo un generico che se va gli antodo, ma sono per un cambio di passo nelle politiche sociali del paese, che erano un po' poi anche le rivendicazioni che nel 2021 spinsero una buona parte della popolazione peruana a votare per David Castillo, il presidente che poi ha cercato un colpo di mano forte e per cui è stato deposto nel 2023, quando è iniziato poi il governo di Boluarte. Come si danno? Quindi sono diverse, no? Cioè, dalla manifestazione studentesca, allo sciopero, alle mobilitazioni di piazza, insomma sono complesse, no? Hanno in una prima parte, diciamo, contro Boluarte hanno avuto più un'estetica e una dimensione sociale legata all'indigeno e campesino, quello che aveva votato in forza da Castillo. Adesso diciamo che c'è una componente studentesca, che infatti abbiamo visto ha recuperato anche delle estetiche care all'Italia e all'Europa, come si dice, no? L'altro giorno lo sciopero generale di Lima aveva la bandiera di One Piece, il grande simbolo della generazione Z, ma anche quest'altra dimensione che riguardava un po' anche alle istituzioni europee che abbiamo visto dell'onda. Grazie mille. Qual è, insomma, cosa ci puoi dire di questo nuovo presidente del Perù, che appunto citavi prima, José Gerí, e insomma mi sembra che questa nomina non soddisfi le richieste dei manifestanti, giusto? Allora, esatto, sì, anche perché le richieste dei manifestanti erano un generico che se vai in todo, se di andare a elezioni anticipate, ed è quello che chiedono dal 2023. quello che ferì invece rappresenta una continuità del potere, e la paura invece che anche col suo asse di finanza con la polizia e con l'esercito si replichi quello che si è visto con Boluarte, ovvero il fatto che non si rispetti neanche la chiamata dell'aprile 2026 e si cerchi un colpo di mano per allungare il governo. Io sono un osservatore, un uomo da tanti anni con le istituzioni peruane e molto vicino all'esercito, quindi c'è una doppia paura, sia la frustrazione che è stata ascoltata per l'ultima volta, che la frustrazione che il personaggio sia uno che cercherà di replicare il potere al mondo. Molto chiaro, io ti ringrazio per il quadro che ci hai restituito di quanto sta accadendo ormai appunto da molto tempo in Perù. Ti chiedo se secondo te ci sono altre cose importanti da aggiungere. Sì, credo che una cosa importante da cogliere è che ci sia un malessere generalizzato di una generazione che si è pensata per tanti anni apatica, perché con forme di fare politica magari non tanto quella a cui siamo abituati, ed invece stiamo vedendo come in tutto il mondo forse quello che a loro interessa avere una grande capacità di mobilitazione e anche di radicalità. L'abbiamo visto in Italia, no? Manifestazioni per la Palestina, un ruolo importantissimo avuto dai giovani e dalle giovanissime. Lo stiamo vedendo in Marocco, stiamo vedendo da tante parti del mondo e anche in Perù, e questa mi pare una delle questioni più interessanti che si sta dando negli ultimi mesi. Siamo assolutamente d'accordo con te, ti ringraziamo e a risentirci a presto. A prestissimo, ciao. Ciao, ciao. Costa nostra, quelli che si pensavano che era tutto sporgo e risate, ci hanno capito no cazzo, perché la merda e scazzi in superficie non galleggiano più qua, ed un cafone sa che certe volte l'unica cosa è scappare dalla realtà, ma lo cafone se cafone torna, porco Dio, torna per spartirsi assieme ai fratelli il peso di essere un dannato. Torna per ricordare che solo i forti sopravvivono, pure a chi non lo vuole sentire. E torna perché altrimenti che ci mettiamo? Ma torna pure per le merde, per chi fa l'amore degli sbirre e li bastardi delle loro spose. Torna per chi cambia 100 facce, ma la merda più la gira e più puzza. Costa nostra, cuore l'Udania già. E la sagra continua! One, two, arrevemeno. One, two, perché non sei meno. One, two, arrevemeno. One, two, ma che cazzo boh. Arrivo un'altra volta, vuoi sapere come mi chiama vero commissario? Io non caccio scuse ma pezzi da 100. Cemento, con la forza del vento la costa inventa. Sbirri in merda e non so se arrendo. Con i nervi in tiro cospiro, il vino batte in goccia come l'aria che respiro. Non ci rigiro, esco col buio e mi riprendo. Rispetto per le strade della zona che provengo. Mo che meno su sta base, sulla cara metto il fluoro come cloro. Sfasci muri con il moto picco e non mi fermo, la scelta andare dritto, e chi parla parla alla fine resta zitto, come una cerqua non si sposta, stringo nelle chele il mio nemico in una morsa, do i vermi in pasta ad una fossa, dalla sera alla mattina e mangiare merda non è cosa fina, siamo gente genuina come paparazze, e se ti disgusta questo pure un bello cazze, guardo bene in faccia perché la ruota gira, io non parlo male, ma zitta e piglio la mira. Rima dopo rima, schizza la cabina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Rima dopo rima, schizza la cabina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Rima dopo rima, schizza la cabina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Rima dopo rima, schizza la cabina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Questa è la missione di un cafone. Attenzione, scusate merda se porto rancore. A tutte le ore, hardcore come il giornale, come in golo francese, come la papalina fritta al mio paese. Se dico che nessuno uguale, è veramente per dare un po' di forza a chi non ha mai niente, ma sicuramente l'infa vitale è necessaria, che senti vibrare in aria, così spontanea c'è pure il rischio, ogni cosa al suo rovescio, lo sforzo degli infami è restare in mezzo, vite a poco prezzo. Valutate un po' di spicci, buone solo da finire per accontentare i sogni di Luigi. Io non cerco spiegazione a queste condizioni, solo per danneggiatori. E chi ama questa storia, il resto se ne va a fanculo come a Sonoria. Rima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Rima dopo rima, schizza schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra con rima, rima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra con rima, rima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra con sublimine, rap criminale, come dinamite carica una cavità da illuminare. La saga dei fighetti durerà ancora per poco, si sono indebitati troppo, ci vanno sotto con chi paga uno scotto sempre. Come l'occasione cala sotto ed esce fuori dal suo portone, una frega di guaglioni della costa mia, si tengono alla larga dalla polizia. Vedi un po' com'è, tocca se è reale come appoggio, e non mi spengo, perciò ci tengo. La lotta che si porta sempre dietro un dannato, e l'odio che io tiro fuori a memoria, me l'hanno dato prima col contagocce e poi con le secchiate. Questo è solo il tempo di ogni scazzo che cercate un caffone in gamma. Resta per strada, fuma marijuana e sputo in terra quando passa la madama. Prima, prima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Prima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Prima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Prima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Prima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Prima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Prima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo cocaina. E la sagra continua. Prima dopo rima, schizza la cantina tipo sniffo. Siamo al telefono con Jawan dei Giovani Palestinesi d'Italia. Buongiorno, ciao, ci senti? Buongiorno, sì. Ciao, allora intanto grazie della tua disponibilità. Con te vorremmo lanciare un presidio che si terrà oggi, lunedì 20 ottobre, a Malpensa. Ci vuoi parlare del motivo per il quale è stato chiamato e poi ricordarci dove e a che ora è l'appuntamento? Sì, sicuramente. Allora, stasera al Terminal 1, dai arrivi alla Porta 1, ci sarà abbiamo chiamato un presidio perché stasera da Malpensa partirà un volo diretto agli Stati Uniti al stabilimento Lockheed Martin di Fort Worth. Con questo volo avrà a bordo 5 carichi di ali per gli F-35, che è un aereo militare che usa principalmente gli Stati Uniti e Israele, che appunto gli Stati Uniti ha usato nell'ultimo anno e mezzo, due anni, ma non solo negli ultimi due anni, però principalmente negli ultimi due anni per portare avanti la sua politica etnica a Gaza e anche attacchi a Iran, lo Yemen, il Libano, la Tunisia. Quindi comunque è un aereo militare molto importante per il proseguimento del progetto sionista e la sua polizia etnica. E appunto noi abbiamo chiamato questo presidio perché riteniamo molto importante che il popolo, che con la mobilitazione, con l'embargo popolare, riusciamo appunto a fermare la complicità dell'Italia e bloccare completamente la macchina bellica, perché dall'Italia è proprio la nostra responsabilità. Ecco, ci hai citato giustamente lo slogan del presidio, quindi blocchiamo la macchina bellica. Perché è importante continuare le mobilitazioni delle ultime settimane che hanno bloccato porti, aeroporti e i principali snodi logistici della guerra? È importante perché adesso si parla di questa tregua, però sappiamo benissimo che Israele ha già violato quasi 50 volte questo cessato al fuoco, e comunque è importante mettere in atto un embargo sull'entità sinistra, perché anche se c'è un cessato al fuoco, queste persone, i sinistri insieme al governo italiano complice nel genocidio devono vedere giustizia, devono affrontare appunto la giustizia, perché comunque negli ultimi due anni sono stati completamente complici nel genocidio del popolo palestinese, ma appunto nel massacro di oltre 70.000 palestinesi. Quindi è importante capire che dal momento che c'è un cessato al fuoco,

compagni braccianti e gente dei quartieri. Siamo studenti, pastori sardi, divisi fino a ieri. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. L'unica cosa che ci rimane è questa nostra vita. Allora compagni, usiamola insieme prima che sia finita. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. Una lotta dura, senza paura, per la rivoluzione. Non può esistere la vera pace finché vivrà un padrone. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. Lotta, lotta di lunga durata, lotta di popolo armata, lotta continua sarà. Lo Stato ha sostanzialmente annunciato un ultimatum per il 5 dicembre, minacciando di sgomberare tutti gli spazi occupati. Il clima politico in seguito all'insediamento di Nea Dimokratia è assolutamente appunto asfissiante da un punto di vista repressivo. Ricordiamo che il 17 novembre di quest'anno migliaia di persone, appunto lavoratori, studenti, giovani, sono scesi in piazza per l'anniversario della rivolta del Politecnico di Atene, che era avvenuta il 17 novembre del 73, quando appunto gli studenti avevano sfidato la giunta militare alla guida del paese, che impediva che ci si associasse a livello studentesco e che si tenessero elezioni dei consigli universitari. E il clima politico però appunto attuale sembra assolutamente riproporre quello di quegli anni. La settimana prima del corteo, una squadra di agenti dei corpi speciali greci ha fatto irruzione nell'Università di Economia di Atene, sgomberando alcuni spazi occupati all'interno dell'università. E diciamo che il fatto di poter entrare all'interno dell'università dopo 40 anni da parte delle forze armate è appunto permesso a causa del fatto che è stata cancellata una norma che prevedeva l'ingresso della polizia nel perimetro universitario solo nel caso di reati gravi o convocazione richiesta dal rettore, e questa è un'iniziativa presa da appunto Nea Dimokratia. E analogamente a questo c'è la questione appunto della minaccia di sgombero per gli spazi occupati. Il governo ha già più volte attaccato Exarchia ad Atene, in particolare nel mese di agosto, e ha continuato a mantenere molto alta la pressione. Abbiamo in linea Gabrio, ci senti? Sì, tenendo presente, cioè nel senso, io appunto sono venuto qua per questi giorni, per cui chiaramente la mia visione, ho parlato con dei compagni di qui, però la mia visione rimane di una persona che insomma è qua qualche giorno, sarà qua qualche giorno, per cui è sicuramente limitata. Per quel che riguarda gli sgomberi, appunto, come hai giustamente detto tu, quest'oggi scade l'ultimatum. L'ultimatum dato dal governo greco, ultimatum che consiste nel o lasciare gli spazi oppure accordarsi con le proprietà, le varie proprietà, per concordare un qualche tipo di affitto, roba del genere. In caso questo ultimatum non verrà rispettato, il governo dice essere molto fermo e molto convinto a procedere con gli sgomberi. Su quando verranno fatti c'è un po' di, cioè chiaramente nessuno lo sa. I compagni qui sono un po' hanno delle visioni differenti. Inizialmente sembrava che effettivamente sei potessero, la polizia potesse approfittare del dispositivo enorme che mettono in campo tutti gli anni per effettuare la maggior parte di questi sgomberi, quantomeno nella zona, insomma, nella zona di Exarchia. Oggi insomma pare che anche dai giornali pare che questa cosa sia un po' ridimensionata, perché il governo sta dicendo ok, l'ultimatum l'abbiamo dato, se non verrà rispettato poi nei giorni seguenti procederemo agli sgomberi. Sicuro è insomma che entro fine anno molti spazi probabilmente saranno sgomberati. Quello che lo spazio diciamo che è un po' più a livello quantomeno di dibattito pubblico e mediatico, posto che viene un po' messo tutta la lente di tangente, il box, che è un posto occupato che sta insomma proprio in piazza Exarchia, appunto già sotto la lente dei riflettori. Questo spazio per esempio, appunto, ho letto un articolo, leggevo degli articoli di giornali insomma di media mainstream oggi, che dicevano che invece danno, insomma, escludevano abbastanza l'ipotesi che questo posto, che comunque ha una sua simbolicità importante, possa essere sgomberato in questi giorni, ma probabilmente si procederà più avanti. Per cui la situazione è questa, sicuramente ci si aspetta una situazione molto simile a quella del 17 novembre, su un quartiere che verrà militarizzato da molto presto, insomma non sapesse come funziona, diciamo che il 6 dicembre gli altri anni più o meno le dinamiche erano che dopo un corteo serale che attraversava le vie del centro cittadino, il corteo finiva, la maggior parte del corteo confluiva in Exarchia e da lì poi, insomma, da quell'ora in poi si cominciavano a costruire le barricate e avvenivano gli scontri con le forze dell'ordine che provavano a entrare all'interno del quartiere. Appunto dinamica, ecco, che per esempio appunto, come stai, cioè, giustamente ricordando, è un anniversario, come dire, una data che è significativa, certo, per anche altri motivi, certo, quindi la scelta di indicare questa data insomma è abbastanza particolare comunque. Certo, sì, scusate, non ho completamente tralasciato questo punto, però il 6 dicembre è l'anniversario della morte di Alexis, che morì appunto per mano della polizia nel 2008, morte che scatenò la rivolta da prima in Exarchia, poi insomma è stata in tutta la Grecia. E appunto il 6 dicembre storicamente ci sono molte manifestazioni in tutta la Grecia e la scelta di questa data da parte del governo sicuramente è simbolica, per cui come dicevo sicuramente la polizia metterà in campo un atteggiamento molto duro. Appunto la cosa più probabile è che rispetto agli altri anni provino a stare in quartiere fin dal pomeriggio, se non addirittura fin dalla mattina presto. Le mobilitazioni che ci sono, cioè una mobilitazione oggi indetta da un'assemblea che è un'assemblea che si è formata dopo i sgomberi che ci sono stati ad agosto di quest'anno, proprio il primo diciamo così attacco molto forte contro Exarchia, alla fine si chiamano Passaran, ha indetto un'assemblea per oggi pomeriggio alle 5, cioè alle 6 di sera, una manifestazione che dovrebbe coinvolgere diciamo così il centro cittadino. Poi invece domani, che è la giornata quella che si aspetta un po' più tesa, perché appunto l'ultimatum teoricamente scade stanotte, tra il 5 e il 6, tra stanotte e domani notte, e niente, per cui e invece per domani le mobilitazioni che ci saranno sarà la mattina a mezzogiorno un corteo degli studenti, anche questo è un corteo che viene fatto tutti gli anni la mattina del 6 dicembre, tra l'altro quest'anno ha un significato diverso perché sono state delle manifestazioni, anche la radio insomma se ne è occupata negli scorsi mesi, mobilitazioni molto forti di studenti, perché appunto in ballo c'è anche una riforma del sistema universitario, nonché appunto il fatto, come giustamente ricordavi tu, il fatto che una delle prime misure presa da questo dal nuovo governo di Unione Democratica è stata togliere l'asilo, per cui togliere insomma la garanzia che la polizia non potesse entrare all'interno dell'università. Per cui una manifestazione, cioè una giornata che si caratterizzerà probabilmente subito dalla mattina in maniera molto tesa, con questo appunto corso studentesco che potrebbe essere insomma molto determinato. Poi pomeriggio ci sarà un appuntamento prima del corteo ufficiale sotto la lapide dove insomma sotto la via dove è morto Alexis, da lì ci sarà una prepunta, da lì ci si concentrerà, si andrà alla piazza che in cui partirà il corteo ufficiale, quello più grosso, quello che ne 6 di sera, e poi si vedrà un po' che succede, perché appunto l'idea di chi sta organizzando è quella che insomma il corteo deve partire da dove morta e lì deve ritornarci. È molto probabile che la partenza non venga ostacolata, perché appunto so come dire la morte di Alexis non è un qualcosa che sentono solo i compagni, ma è comunque una roba sentita da molte persone. Ecco, se è probabile che la partenza venga comunque in qualche modo non disturbata, perché sarebbe considerato un atto molto grave se la polizia provasse insomma a non far concentrare la gente sotto la lapide, il ritorno è un po' più a rischio, nel senso che come ho detto prima, è probabile che la polizia sarà presente dal pomeriggio in tutto il quartiere, per cui l'intento della polizia sarà quello di non fare neanche entrare i manifestanti. In quel caso si vedrà, nel senso sicuramente le persone in strada immagino che saranno molte. Il dispositivo di polizia è imponente, in questi giorni ne stanno parlando, si parla di 4.000 uomini che verranno schierati, supportati da droni, supportati da elicotteri e supportati dalla cosiddetta squadra Delta, che è questa squadra di poliziotti antisommossa in moto, che era stata tolta da Sinistra, una delle prime cose che aveva fatto quando era stato eletto, invece è stata riformata dal nuovo governo. Tanto riformata con gli stessi elementi di prima, appunto questa era un'unità che più di altro che era contraddistinta per forte presenza di elementi fascisti di spicco all'interno della sua unità. Perché insomma lo scenario è difficile, è difficile immaginare che cosa succederà. Sicuramente comunque la determinazione è tanta, in questi mesi sono successe tante cose, sono stati sgomberati molti spazi esterni, la rabbia per cui esterni, ma anche in generale in Grecia, per cui la rabbia è tanta, insomma si vedrà un po' cosa succederà. Lo scenario incerto è tutto questo, come ricordavi, come dicevo prima, c'è questa incognita sgomberi, nel senso che mentre fino a qualche giorno fa si pensava che effettivamente questi sgomberi sarebbero stati fatti in 6, adesso non lo so, i compagni sono un po' più cauti, probabilmente il governo non farà una provocazione così grande, probabilmente ci saranno sgomberati per i prossimi giorni, però insomma questa cosa non si sa, per cui la giornata di domani è un po' incognita, perché potrebbe cominciare da molto presto, chiaramente se dovessero fare gli sgomberi la mattina tutti i piani che ho detto io salterebbero, perché immagino che ci si concentrerà immediatamente fin dalla mattina e tardi, poi insomma si vedrà quello che succede. La polizia, il giornale diceva che sta rafforzando anche i presidi ai commissariati, perché teme appunto che nella giornata di oggi e di domani ci possano essere delle azioni diciamo così isolate, vanno al di là del corteo. Peraltro la notizia di stamattina è che ieri sera intorno alle 9:30 di sera un gruppo consistente di persone abbia attaccato con delle moto uno dei presidi vicino a casa dove sta l'accelere, creando molti insomma danni sia a persone che ai mezzi. Questo mi pare sia più o meno tutto, appunto nei prossimi giorni poi si vedrà un pochettino cosa succederà. Peraltro vabbè, vedo tutto così come sport, poi ci saranno altre occasioni per approfondire diciamo questa legge, non so come dire, i due punti dell'agenda del governo che sta dando come prioritari, oltre alla repressione ai movimenti qua da Atene, c'è anche quella della questione dei rifugiati e immigrati, appunto in contemporanea con questo ultimatum di sgombero, cioè lo stesso giorno il governo ha emesso una dichiarazione in cui dicono che appunto costruiranno dei nuovi centri di detenzione per immigrati. Peraltro la maggior parte degli spazi sgomberati quantomeno a Exarchia erano quote di rifugiati, e anche qui perché il governo appunto ha detto in maniera abbastanza particolare, per cui sgomberandoli e deportandoli in massa in campi che spesso e volentieri sono molto lontani dalla città. Neanche affollati. Esatto, anche affollati, tant'è che c'è un caso di una situazione in cui la maggior parte degli abitanti sono stati deportati in questo posto lontanissimo, praticamente nel nord della Grecia, e in un campo, insomma, essendo rifugiati non vanno in strutture chiuse come possono essere i CIE, però in strutture aperte, insomma loro possono entrare e uscire, però appunto la maggior parte delle persone là non ci voleva stare, e per cui si è fatta da lì, cioè dopo che è stato deportato è fatto da lì ad Atene, ritorno a piedi, che sono tanti chilometri, una volta pronunciato e hanno poi occupato il Politecnico. Questo vi parlo del 17 novembre, quindi qualche settimana fa, insomma, però appunto questi sono un po' così gli elementi messi lì. Adesso niente, adesso vedremo. Chiaramente poi non lo so. Così come le politiche di repressione rispetto a appunto chi si ribella da un punto di vista politico è abbastanza evidente in questa situazione. Quello che ti vorrei ancora chiedere sono due cose. Uno, la questione comunque della continuità in qualche modo da questo punto di vista con il precedente governo, cioè ovviamente qua c'è un inasprimento e un tentativo chiaro di mettere in atto una strategia, cioè di innalzamento della tensione, punto. Però voglio dire, gli sgomberi e gli sfratti erano già propri anche del governo, certo, del governo precedente. E, certo. Quindi niente, un commento su questo e no, niente, nel senso che come dici tu c'è sicuramente una continuità, c'è sicuramente un diverso modo di procedere, perché comunque ecco, Siriza penso non sia, non so, è un partito che è difficile trovare degli, in Italia secondo me è abbastanza difficile trovare qualcosa che gli sia simile, perché effettivamente molti dei suoi membri, anche molti membri alti, vengono veramente dei movimenti, per cui diciamo che per esempio sulla questione del, diciamo così, dei movimenti sociali hanno comunque preferito chiaramente da una parte reprimere, però dall'altra utilizzando anche dove possibile la carta del recupero, per cui attraverso per dire, su questa roba dei migranti vi dicevano un sacco di ONG, un sacco di strutture di questo tipo provavano a intervenire per esempio prima degli sgomberi per cercare di svuotare i posti, promettendo, dando appunto dei, insomma, dei posti letti in questi campi. Poi appunto come dici tu, cioè, gli sgomberi comunque sono sempre avvenuti, tra l'altro a ridosso delle elezioni, probabilmente Siriza, evidentemente annusando il fatto che le avrebbe perse, ha provato a, anche lì, no, a buttarle un po' sulla sicurezza, per cui hanno fatto degli strappi, hanno fatto un paio di sgomberi molto grossi anche di discorso di rifugiati e hanno fatto anche un paio di operazioni, insomma, antiterrorismo contro alcuni compagni molto, molto grosse, che avevano anche lì un ampio respiro mediatico, eccetera, eccetera. Dicevo che sì, appunto, questo era un po' il primo punto. L'altro punto invece rispetto a questo nuovo, come giustamente stai dicendo tu, che sicuramente c'è stato un cambiamento comunque nella modalità di governo da questo punto di vista, con l'insediamento del nuovo appunto della nuova formazione di governo, quale fosse poi la retorica che stava dietro a questo ultimatum del 5, nel senso sicuramente sì, repressiva, però immagino anche legata poi a dinamiche di rivalorizzazione appunto dei quartieri, di decoro, certo, di certo. Certo. Poi guarda, non so, l'idea che mi sono fatto, perché sicuramente parziale, è che è una situazione in cui, non so come dire, il nuovo premier ha una serie di questioni che sono quelle importanti, molto sentite, no? Le mani legate, anzi, peggio, perché così come Siriza, insomma, sarà più o meno costretta a fare una serie di prospetto, vuole insomma fare una serie di riforme a cui non è che può tanto sfuggire, no? C'è in ballo, vabbè, quella dell'istruzione che abbiamo detto, ma c'è soprattutto in ballo quella della sanità. Il sistema sanitario greco funziona, comunque pubblico funziona abbastanza bene, e verrà pesantemente insomma privatizzato, con peraltro anche lì con delle cose che in Italia conosciamo bene, con dei processi che sono ben nati da anni, che anche qui con gli ultimi governi stanno rinforzando sempre di più questa direzione. Per cui insomma, cioè, la mia idea è che non potendo fare molto da questo punto di vista qui, perché comunque troverà di inasprire tutta una serie di protezioni welfaristiche, appunto, di cui gli greci pochi, però comunque godono, il fatto che la, insomma, prova a fare propaganda sono le uniche due cose in cui in questo momento ha la forza di capire, perché ci sono stati movimenti e i migranti. Chiaramente la questione degli immigrati è un po' simile a quella italiana, ma i movimenti no, perché qui non so perché i movimenti hanno tutta un'altra serie di respiro, tutta un'altra serie di portata, e per cui non so, probabilmente in Italia sembrerebbe quasi grottesco dire che un politico fa propaganda sui movimenti, che purtroppo sono un po' ridotti all'uncino negli ultimi anni, invece qui fare una roba del genere comunque vuol dire, può voler dire anche spostare molti voti, può voler dire farsi molte amicizie, però ripeto, questa è così una percezione che ho io da assolutamente esterno.